ci eravamo forse un po' dimenticati dell'Iraq, voi per l'attenzione che la stampa ha ultimamente dedicato alla politica interna degli Stati Uniti, o voi perché ad un certo punto abbiamo avuto come una specie di repulsione coatta nei confronti dell'orrore. Eppure l'Iraq c'è e ci sono anche coloro che, lontani dalle luci del palcoscenico, continuano a portare soccorso alla popolazione. Alcuni di loro sono italiani e non si sono fatti prendere dalla paura ed hanno deciso di non abbandonare Baghdad. Il prossimo 11 dicembre è previsto a Pescara un incontro dei reporter di guerra. Ci si augura che l'adesione sia cospicua, perché bisogna veramente prendere coscienza della grande responsabilità della stampa in un'epoca come questa. È necessario soprattutto fare il punto, se non altro, sulle intenzioni dei cronisti, perché se prendiamo ad esempio Repubblica di ieri, ci rendiamo conto di quanto il giornalismo indipendente e soprattutto quello lucido siano ormai un ricordo del passato. Al contrario di quanto aveva fatto Badrani, il cronista della BBC che è iracheno, e un giornalista di Repubblica, si firma Bernardo Valli, sembra aver scoperto una Baghdad dove non è accaduto nulla, è una terra di sogno dove gli iracheni si aggirano beati attendendo il benessere dietro l'angolo. In settimana ho parlato due volte con uno degli operatori umanitari italiani a Baghdad, il quale mi assicura invece che, ahimè, la situazione è ormai fuori controllo, strutture mediche che non esistono più, sono finiti i medicinali, i bambini e anche gli adulti vengono operati senza anestesia. Almeno da luglio 250 famiglie palestinesi sono alloggiate in un campo profughi in condizioni drammatiche. Stamattina, forse qualcuno avrà sentito il telegiornale, sono morte altre 30 persone, siamo ormai abituati a queste cronache di morte collettiva sempre più ravvicinate. Non meno di 800 persone sono state massacrate durante l'assalto più recente a Fallujah. E dal reportage di Repubblica di ieri apprendiamo e parliamo di un giornale che finisce ogni giorno nelle mani di oltre 1 milione di persone, apprendiamo invece che al White Palace cucinano l'ottima carpa del Tigri, apprendiamo che la bandiera del Vaticano stormisce al vento in cima al palazzo dell'Annunziatura Apostolica e apprendiamo anche che gli agenti immobiliari in questo momento aspettano che da un momento all'altro il mercato immobiliare abbia un boom. A pagina 12 tutta la pagina è dedicata alla morte di uno dei pompieri di Ground Zero, andato come riservista in Iraq e ahimè morto subito dopo. Poi sempre il cronista Valli fa sfoggio un po' dei propri muscoli, ci precisa che trovandosi nei pressi degli insorgenti non prova alcuna impressione, ma teniamo presente che tutta la stampa del mondo ha ormai unificato il popolo iracheno in un popolo di insorgenti. Un altro dato sorprendente è la drastica riduzione delle visite ai siti web che si occupano di Iraq. Iraq Body Count, uno dei più popolari, ha visto andare letteralmente a picco il numero degli accessi di ieri, quelli di ieri erano 237 contro oltre 1600 di metà novembre. Che cosa sta accadendo? Questo è nostra responsabilità stabilirlo. Ci interessa ancora che a Baghdad la gente muoia o vogliamo tranquillizzarci pensando al prossimo boom immobiliare? Bianca Cerri per Reporter Associati, Amisnet.